Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Hai capito, Umberto? È il marchese Bellotti Sti. Ma davvero? Proprio in persona? E chi se ne frega, non ce lo metti? Sono battute, il Benigni e gli altri farebbero bene a lasciar perdere, cioè che facciano il loro mestiere, pietà di me. Non ne posso più di sentire appunto anche i Benigni eccetera parlare di Costituzione, parlare di tutto. Eppure Berlusconi fu così infame da scrivere un titolo truffaldino, ma scrisse semplicemente, modificava più o meno gli stessi articoli, approvate voi la modifica della seconda parte della Costituzione. Questo sta cercando di fregare i cittadini italiani mettendolo dei titoli truffa che, se non ti informi, tu cittadino italiano vai a votare sì. Johnny Stecchino, che è diventato Johnny Lecchino, insomma, fa un po' impressione perché non è più satira, diciamo, si va oltre. Ma dico, quella è la certificazione plastica del fatto che appunto l'Italia sta regredendo. Beh, non è male questa, da Johnny Stecchino a Johnny Lecchino. Era la Micaela Biancofiore, mamma mia, le polemiche per Benigni, le polemiche per il voto che finisce al TAR. Sappiate che il TAR dovrà decidere il 17 ottobre e potrebbe decidere se giudica questo quesito sbagliato, incostituzionale, non lo so, se lo giudica errato, ingannevole, potrebbe anche far slittare il referendum. No, vi prego. Io mi ero già segnato il 3 dicembre come la fine di tutto, almeno la fine di questa campagna elettorale snervante, ma va. E quelli me lo spostano, magari. Vi prego, no, almeno non spostatelo. Tra l'altro pare, così racconta la stampa, che Renzi abbia detto ancora ai suoi: se perdo cambio mestiere. Questa cosa, così, forse l'aveva detto una volta, poi non si sa più. Adesso pare che l'abbia ridetto, chissà. E D'Alema invece, allora D'Alema, te lo fai un bel faccia a faccia con Renzi, Massimo D'Alema? Io non credo che si dimetterà il Presidente del Consiglio, perché le persone si distinguono nella politica italiana tra i molti che minacciano le dimissioni e non le danno e i pochissimi che le danno. Questo è vero. Siccome io faccio parte di questa seconda categoria, so riconoscere quelli della prima a fiuto, diciamo. E quindi posso dire. Vabbè, D'Alema non crede neanche a queste. Allora dai, dobbiamo salutare un graditissimo ritorno, quello di Antonio Di Pietro. Buongiorno Di Pietro. Buongiorno a voi. Come sta? Come sta? Insomma, comincia a farsi il traffico mattutino sulla solita pezzo di autostrada che da Bergamo porta verso Milano. Esatto. Attenzione, perché Di Pietro adesso ha una carica, è una presidente della Pedemontana, giusto? Però bisogna prima farla e poi dire. Sì, vabbè, ho capito, però intanto occupiamo una poltrona all'italiana, intanto occupiamo la poltrona e poi la facciamo. Senza soldi però. Senza soldi. L'ha messo Maroni, tra l'altro. È bellissima questa storia, perché l'ha messo Maroni. No, stai attento. L'autostrada Pedemontana, per l'autorizzazione a farla, diede il ministro Di Pietro. Poi Maroni si è messo lei. Io, quindi all'epoca lo feci io come autorizzazione per farla. Dopodiché Maroni ha deciso di farlo, ma siccome ancora non è riuscito a farla, ha detto: falla tu. però Maroni, c'era stata questa polemica anche, ma come Maroni si appoggia a Di Pietro? Però... voglio dire, non ho capito perché Di Pietro dice politicamente non siete proprio della stessa parte. A parte il fatto che io della politica ho chiuso con la politica, ma detto questo, non ho capito, voglio dire, non è che un pezzo d'autostrada che... voglio dire, non si tratta del ponte sullo stretto di Messina, il ponte sullo stretto, il mitico ponte. Vabbè, allora, parliamo di cose, dai. Parliamo di cose serie. Insieme ad Antonio Di Pietro voglio salutare Federico Novella, che è il conduttore del TG4, eccolo qua. Buongiorno. Come buongiorno, va Federico? Buongiorno, tutto a posto? Bene, a posto. Beh, spero che la facciano l'autostrada prima o poi, no? Almeno che la facciano concretamente, no? Vabbè. Parliamo di cose di cui ci libereremo presto, sicuramente. Il referendum, dai, apriamo il Parlamento ancora. Ragazzi, se uno esce per prendere un caffè, che dobbiamo fare, Federico? Fino al 3 dicembre. Io voglio un referendum sotto l'albero. Ti piacerebbe un referendum? Sì, al 24 dicembre, tutti gli italiani. Tra i pacchi e il referendum, Di Pietro. Allora, Di Pietro voterà no. Questo è abbastanza chiaro. Senza se e senza ma. Ma perché? Cioè, è una cosa contro Renzi o contro questa riforma? Chiariamolo subito. Ma no, perché devo dare tutta questa importanza a Renzi? Ritengo più importante la Costituzione. Siccome voglio salvaguardare quelle che c'è, soprattutto non voglio che quelle che vogliono approvare adesso sia operativa, perché la ritengo una riforma che in realtà rende tutto più difficile, rende tutto meno democratico, rende tutto, soprattutto un ramo del Parlamento, il Senato, composto da persone che non ci azzecca niente per fare i senatori, e soprattutto perché è stata fatta questa riforma da una classe parlamentare, da parlamentari che sono lì con una legge elettorale che nessuno incostituzionale, e quindi mi pare che ci siano gli strumenti per farla, per votare no. Oggi sai che, caro Federico, ti voglio mettere a tuo agio, sai che oggi parla qualche parola così con Falonieri sul Corriere della Sera, e dice, ma mi sembra, cioè non risponde netto, però... alla fine dice, mi sembra che sia più fino, non dice figo, dice fino, dire io voto no, che è un modo, come dire, che lo vede un po' di moda, è una cosa, no? Ma ci sono tanti personaggi, da ultimo Benigni, che sono onestamente convinti che se non lo cambi, che se la Costituzione non la cambi stavolta, non la cambi più. Meno male che un treno che passa, no, e come meno male però poi... Di Pietro, perché meno male? Meno male, perché voglio dire, non ho capito cosa c'è di male. La Costituzione nostra non è che è sbagliata, è in molte parti inapplicata. La Costituzione dice che tutti i cittadini sono di fronte alla legge, dice che ma mica quella parte lì si cambia, ma lascia stare, ma voglio dire, perché una volta che si cambia il modello di parlamentare per farlo diventare più difficoltoso, per esempio, cosa dice Renzi in quel famoso, in quella famosa, diciamo così, quesito che vuole porre agli italiani? Votate una modifica che risparmi i costi della politica. Dove sta scritto? Non è che risparmi i costi della politica. E quando si parla, voglio dire, di che stiamo parlando? Di 4 lire stiamo parlando. Vabbè, ma è la parte, Federico, qual è la questione? Dici che o si cambia, un po' è vero che o si cambia adesso o non si cambia più, però Di Pietro dice meno male. Ma guarda, io, a me dà fastidio questo ora o ma più, dà un po' fastidio, nel senso che i parlamentari, quando vogliono cambiare qualcosa e sono tutti d'accordo, ci mettono una notte. È già una trentina di volte che è stata cambiata la Costituzione. Hanno già fatto la trentina di modifiche. E in aggiunta mi dà un po' fastidio quando quelli che dicono votate sì sono oltre i confini nazionali. Cioè, quando gli americani ci dicono no, votate sì perché altrimenti finite nel baratro. Lì comincio un po' insospettirmi. No, quella no, dai, non arriveranno le cavallette, dai, su. E questo... Beh, no, le cavallette ovviamente non arriveranno. Sul titolo, che è un po' furbetto, anch'io penso che insomma sia stato scritto così per invogliare, sì. Però è anche vero che l'hanno votato. Ma è quello, però, esatto, e quello nessuno si è alzato per protestare, esatto. Allora. Su questo Di Pietro, che qualche cosa di legge ne mastica, hanno fatto capire che non è che avrà le gambe lunghissime questa speranza di appello, cioè è il testo della legge, no? Guarda, premesso che torno a ripetere, è ovvio, è il testo della legge, ma proprio qua sta la furbata, perché dice ma è il testo della legge, perché non l'avete cambiato a suo tempo? Ma davvero uno doveva immaginare, non è facile immaginare tutta questa evoluzione che avrebbe avuto, uno immaginava che poi in buona fede metteva un titolo che poteva essere neutro e non uno spot. Però a termini di legge, i giudici cosa possono fare? Per l'amore di Dio, ma voglio dire, sul piano formale, per l'amore di Dio, però vi dico una cosa, che io in un'altra materia me ne occupavo. È vero, in termini di legge uno dice colpa, buona fede, colpa o dolo. Io credo che in questo caso ci sia stata una cosa in più, la precostituzione della buona fede, che è il massimo della malignità. Cioè, vale a dire, io faccio in modo, lo metto lì come titolo, dopodiché chi va a pensare quando devo fare una modifica costituzionale che devo andare a modificare il titolo? Non è che il titolo mi entra dentro la Costituzione. Quella era un titolo così di tante leggi che si fanno, ma nessuno andava a immaginare che poi queste lo sfruttavano in un modo così furbastro e ambiguo. Però posso dire, siamo l'unico paese al mondo che va al TAR per un testo, per far decadere un titolo. Vado al TAR per le unioni. Ripeto, Di Pietro, un po' è così, va già andare al TAR per cambiare il testo di un referendum. Non ci siamo capiti. Io personalmente, io sto dicendo, per me è un titolo furbastro, assurdo, inaccettabile, però, torno a ripetere, io quando fai una cosa devi sapere poi dove vai a sbattere, perché se il TAR, come probabile, te lo respinge, poi quello lì sembra fa credere agli italiani che ha già vinto, capito? Quindi ci marcia pure sopra. Ho capito, però tutto questo presuppone che gli italiani siano un popolo di ignorantoni che non si informano. Cioè, uno dico, c'è un referendum, se vuoi informati, e se vuoi, se non vuoi informarti... Non diciamo così, dai. Io quando parlo dell'italiano medio, bene... E con le mani pulite, penso sempre a mia sorella, che è una persona bravissima, non è come me. Si informa. La prima cosa che fa mia sorella, quando mia sorella legge, vuoi votare una legge in cui i costi della politica sono minori? Va bene, certo che voglio parlare. Ho capito, ma lei alzerà il telefono alla sua sorella e dice: come si chiama sua sorella? Io l'ho risolta. Mia sorella, sì, certamente, perché glielo spiego io. Quando fratelli spiego mia sorella? Ognuno avrà un fratello, un cugino. Se no, Di Pietro, facciamo al contrario. Di al cellulare qui pubblicamente. Ma sai e chi vuole. Sai quando fratelli e cugini si chiamano Mattello invece che Antonio? Possiamo istituire un telefono amico. Telefono amico può mettere una linea. Sono tuo fratello, chiamatemi e vi spiego la riforma. Dice sì, dai, facciamo un 118. Facciamo e vi spiego la riforma. Si può fare un 118. Un 118. Va bene, dai. Allora, intanto io su tutti i giornali troverete questa notizia. Che mi sembra, no, su tutti i giornali c'è questa notizia, che i giovani se ne vanno via. Ma io dico, bene, fate bene, basta questa cosa dell'italianità eccetera. Se un paese è incrostato, bloccato, se siete giovani, avete l'opportunità, via, andate a lavorare dove i salari sono più alti, andate a lavorare dove c'è più prospettiva, dove si può crescere. Se sono troppo antipatriottico, Federico, fermami. Per carità, non è possiamo legarli, però che se ne vadano via i giovani in cambio vengono anche gli immigrati, non è un grande futuro per il nostro paese, visto che i bambini nuovi non se ne fanno. Che dobbiamo farci? Se i nostri talenti se ne vanno, dimmi tu che futuro avremo. Ma non è che se ne vanno perché sono anti-italiani, non è colpa loro. Gli anti-italiani sono i governanti che non riescono a tenerseli sul territorio italiano, appunto. Non sono mica loro che se ne vanno, figuriamoci. Quindi io dico, i giovani se ne vanno, c'è questa cifra, 100.000 all'anno, questo rapporto migrante, che vedremo in rassegna stampa. Io sono in conflitto di interessi. Perché in conflitto di interessi? Perché due su tre ce li ho fuori anch'io. Non fanno bene, non fanno bene. Cosa dicono? Cosa dicono? È meglio? Loro non è che dicono che è meglio, è che per lavorare sono dovuto andare fuori pure loro. Questo è il problema. Si sono laureati tutti e due. Dopodiché hanno detto, papà, che facciamo? Che te devo dire? Ho detto, una volta si usava, perché il politico una volta lo sistemava, adesso va pure in galera, quindi il medico va andato. Cioè non è riuscito neanche a sistemare due poltroncine? Non ci ho provato nemmeno. Ah, porca, c'è una miseria. Non solo io non ci ho provato, è stato loro che hanno detto, papà, andiamo a farci una nostra vita fuori. Sono orgoglioso che sono andati fuori a trovarsi un lavoro e che sono autosufficiente. Dall'altra, come si mette nei panni di genitore, voglio dire, mi dispiace. Dispiace, ma certo che dispiace. Però per l'amor di Dio, dopodiché questo è il futuro. Preferisco che loro si costruiscono la loro vita fuori piuttosto che stare qua arrabattati a sperare. Ma infatti, dire, questo dovremmo capire, forse Renzi dovrebbe dire agli italiani quanta percentuale di giovani non trova lavoro, perché questo ogni giorno io sento che lì vende, ma io non ho mai visto un venditore ambulante come lui. È una cosa incredibile. Ce l'ha con lui, perché dice che va tutto bene. Un vero politico è quello che prima fa e poi dice che ha fatto. Questo è dal primo giorno che parla sempre al futuro. Farò, dirò. Ma, voglio dire, prima falli i figli e poi dirgli che le fa. Vabbè, comunque la questione è che fanno bene, io dico fanno bene se non hanno prospettive ad andare all'estero i giovani. 110.000 emigrati nel 2015, d'altronde io quando dico e invitiamo gli ascoltatori dall'estero e ci raccontano le loro esperienze, spesso appunto sono persone che dicono sono andato a trovare lavoro là, sono tutte persone soddisfatte, che lavorano, che entusiaste, che crescono. E va bene, andiamo al traffico noi. Mila, salve. Non se la prenda, perché la gente che c'ha il cervello scollegato sa quante ce n'è. Ma troppe. Sei stato un grande, Alessandro, un grande. Avanti così. A Milan, è il terzo volante che mi fai cambiare, mo m'hai stufato. Fronte del Sì dice che voi volete abbattere Renzi, che non si entra mai nel merito. Assolutamente sì, questo presidente del Consiglio, buono a nulla, che ha distrutto il paese, che ha distrutto l'economia, che ha diviso il paese. La soddisfazione di vedere Renzi andarsene a casa e trovarsi finalmente un lavoro, visto che non ha mai lavorato in vita sua, è una cosa troppo bella e gli italiani se la sognano anche la notte. Il brunetta del giorno, siamo con Federico Novella, Antonio Di Pietro. Di Pietro non le dà fastidio essere con Brunetta, con Berlusconi, con i grillini? No, i grillini no, perché sono più suoi amici. No. Ma non ho capito. Spero che il 51% degli italiani, che non sono né con Brunetta né con Di Pietro né con altri, possano votare no il merito della riforma. Io personalmente, per esempio, sono tra quelli che non dice Renzi se ne deve andare a casa. Per me Renzi non ci deve neanche entrare, perché bisognava prima che vincesse le elezioni. Ma detto questo, a me che resti o non resti non interessa niente. A me preoccupa il fatto che questa riforma costituzionale viene venduta come la panacea di tutti i mali. Sì. È quella che ci farà diventare tutti ricchi, ci farà trovare il lavoro, ci rimetterà tutto a posto. E non è vero. Allora, perché devo fare una riforma truffando gli italiani, facendo che ne fischi per fiati? No, su questa ragione, su questa ragione ci vorrebbe la riforma seria del lavoro, togliere la burocrazia, la riforma della giustizia, le cose vere per sbloccare un paese. Però sapete che, Federico, mai visto l'immagine di questo europarlamentare poverino? Ci ho aperto il telegiornale ieri, la foto del giorno, sembrava morto. Quello che si sono presi a cazzotti, UKIP. Ma dove siamo? Ma dove all'Europarlamento tra due parlamentari? Si prendono a schiaffi nell'Europarlamento. Questi sono i parlamentari europei che dovrebbero, dall'alto, dovrebbero dirci cosa fare. Questi qua si prendono a pugni. Dello stesso partito, peraltro. Lei, Di Pietro, uno schiaffetto ogni tanto l'ha preso, l'ha dato con qualche... non so, a razzi, uno schiaffettino forse gli avrebbe voluto dare. Uno scappellotto, come si dice, però, dalle sue parti, da noi, però, lo guardate, posso dire una cosa? Sì. Razzi cosa ha fatto? Ha fatto quel che lui ha detto, mi faccio i cavoli miei, e io l'ho tradotto di Pietrese. Sì. Ha detto quel che altre, solo in questa legislatura altre 300 parlamentari hanno già fatto, cioè sì, hanno cambiato partito. Quindi voglio dire, tutti quei parlamentari che dicono razzi, sono tutti razzi dalla mattina alla sera pure loro. Tutti razzi. Vabbè, ma qualche schiaffettino è volato o no? No, mai. No. Veramente, chi ha preso schiaffo in faccia sono io. Ecco, lo schiaffo in faccia. A proposito di schiaffo in faccia, ma allora io non ho capito se questi 2 milioni rotti lei li deve dare o no a Giulietto Chiesa. Alla fine li darà? Ognuno ha diritto di chiedere qualcosa a qualcun altro. Bisogna vedere se poi è vero che lo deve, che bisogna pagarli o meno. Questi già ci sono stati decine di provvedimenti che hanno smentito questa circostanza, poi non io, semmai il partito. La verità è molto semplice: il partito Italia dei Valori quella volta ha permesso anche a tante altre persone di entrare nella lista. Questi qua dicono, ma noi siccome non siamo entrati come Italia dei Valori ma come altra associazione, vorremmo la metà di questi soldi. Adesso sarà il giudice a decidere. Ma la cosa che a me ha fatto arrabbiare moltissimo qual è? Il fatto è che voi giornalisti non potete scrivere Di Pietro è condannato a pagare, capito, non c'è mai né una sentenza né una condanna. Capito, c'è qualcuno c'è stato... ascolta a me, c'è qualcuno che dice quello mi devi dare 100 lire, ma che sarà? Io parlo ancora lì, guarda un po'. Sì. Sarà il giudice a decidere se è vero o non è vero. Ma quanto deciderà questa giustizia lunga? Quando ci sarà una decisione definitiva se glieli deve dare o quando no? Metterete in condizioni i giudici di farle il problema di fondo. Non si può da ancora oggi far mancare 1000 cancellieri, far mancare tribunali, ma Pietro, ma ci sono i 2 milioni in cassa da qualche parte, se dovessero ma non gli spettano, non hai capito? Non gli spettano. No, vabbè, dovesse mai un giudice impazzisce. Se lei stamattina mi chiede un miliardo, lei me lo può chiedere, dopodiché mi mette a ridere, che devo fare? Ho capito, ma se un giudice per capire se ce l'aveva in banca. Magari. Vabbè, comunque ha stravinto Donald Trump ha stravinto con questa dichiarazione. Questa neanche Berlusconi ci è mai arrivato. Questa veramente supera tutto. Non mettere sullo stesso piano Donald Trump. Ve la faccio sentire in inglese, ma prima ve la spiego per chi non sa l'inglese. Praticamente Donald Trump si rivolge ai malati, proprio ha detto se siete malati vi guarisco io. No, meglio. Ha detto non importa se siete malati, non importa se il dottore vi ha appena detto anche che siete dei malati che tra poco morite, l'importante è tenere duro, hang out fino a novembre, votatemi e poi vi ricorderemo. Senti qua, e poi vi ricorderemo. Vedi, senti. I don't care if you just came back from the doctor. E dice non me ne frega se il dottore vi ha appena dato la diagnosi peggiore. Senti. Prognosis, meaning it's over. Over, finito. You won't be around in 2 weeks. Morirete subito. Non importa. Hang out till November 8th. Get out and vote. Votate e poi we love you and we will remember you always. E poi noi vi amiamo e vi ricorderemo per sempre. Ma non era più in un'altra vita. Ma non era più grande dichiarazione d'amore di un politico. Però quello che preoccupa non è quello che preoccupa non è quello che dice Trump, è che quasi la metà degli americani lo votano pure. No, ma per carità, pensano tutti i politici, lui ha fatto l'errore di dirlo. Ma certo, dice, state per morire, non importa, tenete duro fino a novembre, votatemi e poi pace e bene. È straordinario. Però è anche vero questo, che secondo me questa quotidiana denigrazione di Trump rischia seriamente di farlo vincere. Certo, guarda, ma è chiaro. Rivediamoci il giorno dopo le elezioni e vediamo. Infatti ancora se la giocano sul filo. Se la giocano. Noi qua dobbiamo terminare. Di Pietro, a proposito, mi deve 1 milione di euro. Così io la butto. Scusa. Posso abbonarti quei 5 milioni che mi devi dare altri ieri? Va bene, dai. Chiudiamola qui. Intanto mi riferisco a Novella, quando mi deve dare altri 3 milioni. Anche lui così. Va bene, vi saluto. Antonio Di Pietro, grazie. Federico Novella, conduttore del TG4. Alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da... Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... È arrivato Milanalino, legge, commenta, spoglia, combattute piccanti. È arrivato Alino Milan, l'arrotino della comunicazione. 24 mattino. Cari amici, ma io come vi devo ringraziare? Come vi posso ringraziare per tutte queste sigle? Un giorno, quando vado in giro, mi dicono: ma sono vere, sono verissime, sono i nostri ascoltatori, il patrimonio più grande che abbiamo, il nostro oro nel forziere. Cari amici, mandate la mail, mandateci la vostra sigla via WhatsApp al 349-238-6666, che come vedete per magia si trasforma in sigla in onda. Allora, siamo pronti nella rassegna stampa di 24 mattino a leggere i giornali. Andiamo! Oh, non sanno di che parlare i giornali, eh! Venerdì 7 ottobre e anche la 179esima settimana decisiva per l'abolizione delle province è in cantina. E niente, la 180esima potrebbe rivelare qualche colpo di scena. Intanto i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore sulla BCE, quantitative easing avanti, anche oltre marzo, ma il board avverte, ci sono difficoltà a reperire i bond da acquistare, questo è il titolo di prima pagina. E poi la notizia da cui partirò anch'io è l'apertura per Repubblica, no scusate, per il Corriere della Sera, sempre più italiani all'estero, così il giornale. Un anno di governo Renzi, fuggono 110.000 giovani, entrano 150.000 immigrati. Il manifesto prende spunto da questo rapporto a titolare Fuga dalla realtà. Repubblica e Il Messaggero invece aprono sulla flessibilità, l'Unione Europea apre all'Italia sugli immigrati, è il titolo di Repubblica, mentre Il Messaggero flessibilità, l'assist dell'Unione Europea all'Italia. Leggo anche il titolo della Stampa, Renzi, se perdo cambio mestiere, questo è ciò che avrebbe confidato, non in maniera pubblica, ai suoi collaboratori. Voglio però partire subito dalla lettura dei quotidiani e da questa notizia, poi vedremo qualche altra apertura se c'è spazio. Carlo Marroni racconta a pagina 8 del Sole 24 Ore di questo rapporto della Fondazione Migrantes, organismo della Conferenza Episcopale Italiana. Nel 2015 espatriati 107.000 italiani e un terzo di loro sono giovani e scolarizzati. Sono giovani scolarizzati sempre più del nord che non vogliono essere chiamati emigranti ma viaggiatori. Sono gli italiani che sempre più numerosi guardano all'estero, specie in Europa, per realizzare le proprie ambizioni di studio, lavoro, famiglia. Numeri molto significativi. 107.529 sono i connazionali espatriati nel 2015. Sono 6,2% in più rispetto all'anno precedente. In maggioranza hanno un'età tra i 18 e i 34 anni, il 36% di questi. La meta preferita è la Germania. Le regioni da cui si va via di più sono Lombardia e Veneto. Questo in estrema sintesi il rapporto che poi viene analizzato all'interno del Sole 24 Ore, ma insomma, tutti i giornali dedicano alcuni l'apertura a questo tema. Io dico fanno benissimo, non bene, benissimo. Basta questa cosa della difesa a tutti i costi, l'italianità. Fanno bene, aprono gli orizzonti, guardano, vanno dove ci sono più prospettive. Il dramma per noi, come racconta in un'intervista al Giorno Francesco Ferrante, che insegna economia politica alla LUIS e prorettore al job placement dell'Università di Cassino, il dramma è questo. Perché si pensa, ah beh, ma che problema c'è? L'investimento perso, se ne parlava anche ieri quando abbiamo invitato il rettore di Padova, che invece è riuscito ad attirare alcuni cervelli in fuga, così vengono definiti qui in Italia. L'investimento del sistema scolastico e delle famiglie, racconta il professor Ferrante, viene capitalizzato in altri paesi. Costa, secondo l'OCSE, $50.000 formare un laureato italiano al netto del costo della scolarizzazione primaria e secondaria. uno laureato tedesco costa circa il doppio al sistema, ma se lo tengono stretto. Noi invece, che succede? Succede che la base di partenza retributiva per un laureato italiano non è molto lontana da quella di un diplomato. Un ingegnere a un anno dalla laurea, a parità di caratteristiche, all'estero guadagna il 40% in più mediamente, senza contare le opportunità di carriera e i vantaggi in termini di servizi sociali. Da qui un paradosso: le imprese lamentano la carenza di figure professionali come gli ingegneri informatici, ma in realtà ne esportiamo moltissimi all'estero perché li pagano meglio, offrono loro maggiori possibilità di realizzazione professionale in paesi come la Germania, servizi di welfare migliori. E allora mi viene da dire, ma perché un ingegnere informatico, ragiono io, dovrebbe starsene qui invece che andare in Germania, dove viene pagato di più, in media il 40% in più, e ha un welfare migliore e ha una prospettiva di crescita? Perché dovrebbe rimanere un paese vecchio, incrostato, dove ci sono le solite dinamiche un po' strane, no? Se vuoi emergere, se vuoi fare la meritocrazia, ma per favore, in Italia. E perché dovrebbe rimanere? Fa benissimo ad andare via. Comunque, questi dati sono impressionanti e li trovate su tutti i giornali. Come tra l'impressionante e lo spassoso è leggere Sara Bennewitz, che oggi a pagina 10 e 11 di Repubblica sviscera in ogni singola parte il testamento di un grande uomo, un grande imprenditore, Bernardo Caprotti, che è morto qualche giorno fa, fondatore di Esselunga. Tutto il testamento Caprotti. Sara Bennewitz, pagina 10 di Repubblica e 11. Esselunga non dovrà mai finire alle COP. Questo è scritto nero su bianco. Bernardo Caprotti l'ha ripetuto mille volte in vita. L'impegno passa però ora ai suoi eredi. Il testamento del patron della più grande catena di supermercati tricolore è tranchant. E oltre a spartire azioni, soldi, case, castelli, quadri, Bentley, fucili da caccia tra i due rami di famiglia dilaniata dalle lotte dinastiche, traccia la rotta per il futuro dell'impero di casa. Attenzione, mette nero su bianco Caprotti nel documento che Repubblica ha visionato. La società è privata, italiana, soggetta ad attacchi, e le sue ultime volontà sono così precise. Supermarkets italiani, fa verbalizzare dal notaio, può diventare una Coop. Questo non deve succedere. Meglio un alleato o un compratore all'estero, trovando all'azienda, quando i pessimi tempi italiani fossero migliorati, una collocazione internazionale. E Caprotti la indica anche. Ahold, colosso olandese, sarebbe l'ideale. Mercadona, rivale spagnolo, no. Queste alcune delle disposizioni, ma poi nel documento si racconta la divisione di Esselunga, ma ci sono anche dei momenti straordinari. Per esempio, guidare Esselunga è un rischio, è troppo pesante condurla, pesantissimo possederla. Questo paese cattolico non tollera il successo, così scrive nel testamento Caprotti, e i concorrenti sono in agguato per cogliere la palla al balzo. E poi che cosa fa dei beni? Beh, interessante anche questo. Il primogenito Giuseppe ha ricevuto un appartamento sul golf di Monticello a Cassina Rizzardi, appartamento di Verbier in Svizzera, la villa di famiglia ad Albiate, i suoi arredi, la biblioteca di 4.000 volumi, l'archivio di famiglia, e tra cui una natura morta di De Chirico. Violetta, invece, la casa in via Biglia a Milano, quella di New York sulla Quinta Strada, il castello Bursinel sul lago di Lemano, alcuni quadri, tra cui un olio di Zandomeneghi. Alla moglie invece un altro appartamento, l'intera proprietà nel Monferrato con la casa di caccia e quattro cascinali, la barca, la metà della casa di Schiatos in Grecia, metà invece alla figlia Marina, e poi anche qui opere d'arte. Al ragioniere di una vita Cesare Redaelli vanno 2 milioni, alla segretaria metà dei conti correnti presso Credit Suisse e Deutsche Bank, i due conti titoli e il conto corrente sempre presso Deutsche. Metà di questi conti vanno ai 5 nipoti. E poi il finale del testamento, anche questo straordinario, alla Caprotti. Eccolo qui. Ho lavorato duramente, ho sofferto l'improvvisa tragica scomparsa di mio padre, poi più tardi il dissidio con i miei due fratelli, la cui liquidazione richiesta mi è costata quasi 20 anni di ristrettezze. E alla fine, ove mai qualcuno dovesse pretendere integrazioni a quanto ricevuto, tali pretese dovranno naturalmente, come per legge, riferirsi a tutto quanto disposto col presente testamento. Il funerale che sia al mattino, il più presto possibile, onde non disturbare il prossimo. Nella chiesa, a 300 metri da casa San Giuliano, con la preghiera che non siano fatti annunci o necrologi, perché sarebbero paginate di fornitori cortigiani. Così parlò Bernardo Caprotti nel testamento che oggi Repubblica mette a pagina 10 e 11. Ma siamo all'articolo che mi fa pinzare della giornata. Mi spiace per l'ascoltatore che ha detto che ha già rotto 3 volanti, io non glielo pago. Mani sul volante, mani sul volante. Anche qui siamo in ristrettezza economica, quindi non lo paghiamo neanche qui a Radio 24, caro ascoltatore. Gian Maria De Francesco racconta la disavventura con Equitalia, anzi l'Agenzia delle Entrate, di un agente di commercio che ha fatto un errore. Si chiama Luca Schiavon. Sta a Spilimbergo, provincia di Pordenone. Il 22 agosto ha effettuato tramite l'F24 un versamento. Invece che scrivere 967,30 euro, ha messo non la virgola ma il punto, l'ha messo una cifra prima e ha versato 96.730 euro. Così agisce. E tra l'altro dice, tra l'altro sfortuna vuole che aveva appena fatto un'operazione immobiliare, per cui quei soldi ce li avevo sul conto. E allora gli hanno ciucciato 96.730 euro. Quando se n'è accorto ovviamente è andato all'Agenzia delle Entrate e ha detto no, scusate, ho fatto un errore, guardate la cartella, quello che devo versare è 967,30 euro, non 96.730 euro. E all'Agenzia delle Entrate effettivamente hanno fatto tutti i controlli, hanno detto ha ragione, glieli ridiamo. Bene, me li ridia, glieli ridiamo nell'unico modo possibile, e cioè un'istanza di compensazione. Al ritmo di 1.000 euro a trimestre glieli restituiamo. Ma come 1.000 euro a trimestre? Ho sbagliato, sono miei. 1.000 euro a trimestre glieli daremo, non si preoccupi. In 25 anni li recupererà. Ma come? Ma sono miei, ve li ho dati per sbaglio. 25 anni, abbia pazienza. È l'istanza di compensazione. Le ridiamo, ma sono miei. Glieli ridiamo. Non è possibile una roba del genere. Vergognatevi, cazzo. State ascoltando un programma offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Arria ol Milan, quelche lessi giornai. Bravo Alino. Bergamasco. Evviva, evviva anche una cosa di famiglia, evviva tutta la famiglia. Allora, cari ascoltatori, ancora si parla del referendum, si sa, tra l'altro il 17 ottobre è prevista forse la sentenza del TAR, c'è stato questo ricorso sul testo del referendum, 17 ottobre, e potrebbero, se giudicano il testo sbagliato, incostituzionale o comunque ingannevole, come dicono i ricorrenti, potrebbero far slittare il referendum, vi prego. No, almeno quello, almeno la data, lasciatecela lì così, le poche certezze della vita, almeno tutto finirà il 3 dicembre in qualche modo. Comunque, sul referendum vi segnalo che ieri Renzi, che era a Torino, la stampa mette in prima pagina questa frase, che in realtà non è una frase proprio di Renzi esplicita, ma secondo la stampa è una frase confidata ai suoi collaboratori, ed è questa: se perdo cambio mestiere. E infatti è il titolo di prima pagina della stampa, se perdo cambio mestiere. Renzi a Torino però pubblicamente dice non ho paura, ma è giura la stampa, appunto, se perde è pronto a lasciare la politica. Tra l'altro c'è anche stato questo scontro al Calor Bianco con D'Alema. D'Alema che dice invece non ci credo, non è vero, è uno dei classici che promette le dimissioni e poi non si dimetterebbe mai. Luca Lotti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che dice D'Alema è livoroso per una poltrona persa. Insomma, il clima anche all'interno dello stesso partito è questo. È interessante oggi sul referendum leggere che cosa Francesco Verderami, prima pagina del Corriere della Sera, va a sondare gli umori di Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset. Perché? Perché si è vociferato da più parti il fatto che Berlusconi terrebbe un profilo basso per non intralciare in qualche modo, mettendosi in prima persona, con una campagna ossessiva per il no. Alcuni hanno parlato addirittura di un accordo sottobanco, Berlusconi cioè che non si mette in primo piano e Renzi che come governo favorirebbe alla Corte Europea di Strasburgo una sua riabilitazione in politica. Comunque Francesco Verderami in questo contesto va a sentire Confalonieri. Quando lo incontrano tutti gli fanno la stessa domanda, dice Verderami, ma lui invece di parlare del referendum spiazza gli interlocutori, sposta la conversazione sui mali del paese. Un paese afflitto da parassiti, dice Confalonieri, dai furbetti del cartellino a quelli del capitalismo protetto. Da una parte si è smarrita l'etica del lavoro, dall'altra si è perso lo spirito dell'intrapresa. Nessuno fa nulla di nuovo. E poi si drammatizza e si sdrammatizza nel giro di poche ore. Al TG delle 13 siamo sull'orlo del default. Al TG delle 20 arriva il controordine, non succede nulla. E lentamente, dopo questo lungo ragionamento, si scorge l'ordine di questo ragionamento. Si intuisce che Confalonieri sta rispondendo alla domanda, si capisce come il braccio destro di Berlusconi da anni stia sfruttando l'accusa di essere un lobbista per proteggersi. Ma io sono un lobbista, ripete ogni volta, in realtà è un alibi. Certo, aggiunge Confalonieri, Renzi sarà anche un ganassa e tutto questo può dar fastidio, ma ciò non gli fa cambiare idea sul referendum, non lo dissuade dal convincimento che serva un'intesa tra le forze del popolarismo e del socialismo europeo, con tutti gli ismi che girano per l'Europa nel contesto della crisi globale. E poi aggiunge, se però qualcuno scrive che faccio politica, giuro, lo querelo. E poi Verderami alla fine arriva al nocciolo, vabbè, ma come vota allora, come voterà Confalonieri? Il capo del biscione si mette a ricordare di quando in Italia c'era la DC, sembra che nessuno la votasse, infatti nei sondaggi era sempre bassissima, poi si aprivano le urne e zac. E allora, magari mi sbaglio, ma penso che sul referendum oggi faccia fino dire io voto no. Eccola qui la risposta alla fatidica domanda, più chiaro di così. E il titolo è Confalonieri al referendum, oggi fa fino dire io voto no. Con la DC nessuno ammetteva di sceglierla, come dire, secondo Confalonieri poi alla fine vincerà il sì, nonostante tutti questi io voto no, io voto no. Allora pare intanto che Renzi si sia arrabbiato con la 7 in maniera molto dura, non gli è piaciuto assolutamente il modo in cui Del Rio è stato trattato da Floris di martedì e quindi secondo il Fatto Quotidiano Carlo Tecce a pagina 5 la fatua di Renzi contro la 7, cioè quasi proprio un ordine di un imam islamico. Boschi salta 8 e mezzo, si è arrabbiato il premier, è furioso, ce l'ha con Floris e quindi ha fatto saltare oggi il faccia a faccia previsto tra la Boschi e Salvini da Lilli Gruber e va in Rai a Politics con la Berlinguer, come dire, contro la 7 che fa anche ottimi risultati e schiera la sua Rai. Questo è la traduzione del Fatto Quotidiano riguardo a tutto ciò. Tra l'altro La Stampa con Nicola Piepoli fa un barometro sull'indice dei gradimento degli italiani. Secondo Piepoli La Stampa, sorpresa referendum, ora il sì è in rimonta. La fiducia nel premier si ferma al 33%, non è più i tempi del 40%, ma gli italiani gradiscono soprattutto l'abolizione del bicameralismo perfetto, non gradiscono ed è bocciato il Senato non elettivo. Però in generale Nicola Piepoli racconta che il sì pare in rimonta, sondaggi, ecco perché, vedete perché è bene che non spostino la data, almeno il 3 dicembre sarà tutto finito in un modo o nell'altro. In ogni caso Silvio Berlusconi, che abbiamo sentito con Fedele Confalonieri, è dato per un po' fuori dalla mischiona di questa campagna elettorale, secondo alcuni anche ad arte. Invece, secondo il giornale, Francesco Kramer, ecco qua, rientro di Berlusconi, convincerò gli indecisi. Ma quale linea soft, scrive il giornale. Il suo entourage smentisce la lettura che qualche giornale fa della sua assenza. Non c'è alcun tentennamento sulla linea da tenere, dice che gli sta vicino. E Berlusconi, dagli Stati Uniti, dovrebbe tornare questa fine settimana, sta benone, forse all'inizio della prossima torna invece che questo fine settimana e ci metterà la faccia nella battaglia referendaria. Non resta che attendere, sperare di chiarire le cose, vedere. Intanto per ora è tutto rumors, rumors. Apriamo gli orizzonti, c'è un signore che è nostro amico, si chiama Moscovici, così almeno appare, nel senso che è all'Unione Europea. Moscovici, il commissario degli affari economici, Pierre Moscovici, ha aperto in qualche modo sulla flessibilità da concedere all'Italia, soprattutto perché gestiamo i migranti e quindi la questione della legge di stabilità ce la vedono con un po' più di favore. Questo almeno dice il Sole 24 Ore, vero caro Mauro Meazza? Ma è vero caro Alessandro, proprio così, anche se ha precisato che lui non ha detto nulla di nuovo, già c'è stata una apertura sulla flessibilità e comunque dobbiamo motivarla bene, ecco, per così dire, dobbiamo giustificarla bene, insomma ci accettano un po' di flessibilità ma cerchiamo di non esagerare. Questo però è tutto raccontato molto meglio di come posso fare io a pagina 5, laddove tu troverai anche il primo dei due articoli da meditazione che ti voglio consigliare, che riguarda le clausole di salvaguardia. Perché, come ti dicevo già ieri, non solo non spariscono del tutto, ma potrebbero pure arrivarne di nuove. E allora tu, con calma, approfittando del fine settimana, tieni da parte la partita delle clausole IVA che non si chiude in soli 3 anni, a firma di Davide Colombo e Marco Mobili. È il primo degli articoli da meditazione. Ho naturalmente già segnalato il nostro titolo di apertura dedicato alla Banca Centrale Europea, che non fa marcia indietro sulla quantitative easing. Ti segnalo anche l'FMI che dà una bacchettata alla Germania in pagina 3 e dice, insomma, investite di più visto che voi state meglio, detto molto malamente. Oh, ti voglio anche dire che è lecito per l'azienda verificare se sei veramente malato con un investigatore. Perché c'era un signore che ha detto che aveva mal di schiena e poi però riparava il tetto, e questo è stato appurato, c'era dubbio se però le modalità per appurarlo erano quelle corrette, e la Cassazione ha detto sì, va bene, trovi tutto in norme e tributi che tu leggerai come sempre religiosamente. Ma leggendo avidamente Finanza scoprirai che stanno preparando la pubblicità sulla TV regionalizzata, cioè te la mandano in modo personalizzato. È una novità importante. Leggi avidamente la Finanza. Oh, secondo articolo della meditazione, di tutt'altra natura, quello che scrive Roberto Bongiorni a proposito di Aleppo. Aleppo potrebbe scomparire in 2 mesi, l'ha detto l'inviato dell'ONU. Ecco, questo articolo della meditazione invece molto più serio. Ringrazio, devo farlo da una settimana, lo faccio ora, Vittorio Vignati e tutto lo staff delle persone che in azienda si occupano dei telefoni, perché mi hanno sostituito a tempo record il cellulare, altrimenti queste conversazioni non potevano andare in onda. Ti auguro una serena domenica, tanto non dobbiamo augurarci nulla di particolarmente importante dal punto di vista calcistico. E per tutti quanti, come sempre, traffico! Alessandro Milan, la chiappa fantasmi dell'informazione. Vabbè, era scontato per l'intervista che ho fatto sulla verità, colui che acchiappa i fantasmi, i vampiri e i licantropi. Ha detto tra l'altro che c'è un collega nostro, un giornalista in una redazione di un importante quotidiano, non ci ha citato quale, licantropo. Cioè i lupi mannari, quelli che di notte... vabbè. Allora, Roma... C'è stata una denuncia da parte di Grillo e dei Grillini perché intimidazioni contro la Raggi. È stato trovato non tanto un esplosivo, ma un innesco non esplosivo sotto casa di un collaboratore di Daniele Frongia, che è il vice sindaco. E per la polizia, come raccontano tutti i giornali, non era lì per esplodere, ma è un messaggio considerato atto intimidatorio su cui la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Diamo fastidio a qualcuno, continuano Grillo e Raggi. Certo, c'è anche questo giallo sulla questione di questo innesco trovato. Tra l'altro, Roma torna in primo piano la questione di Mafia Capitale, con tante richieste di archiviazione e con Il Foglio, che non ha mai creduto a Mafia Capitale, e oggi Salvatore Merlo in prima pagina del Foglio scrive: Mafia Capitale era una fiction. Ma come? Le intercettazioni ce le abbiamo tutti in mano, per i soldi si sono scannati, dicevano al telefono Luca Odeven e Salvatore Buzzi, mentre i carabinieri intercettavano e registravano per conto della Procura di Roma. Ufficio che ieri ha clamorosamente chiesto l'archiviazione per 117 imputati in Mafia Capitale, imprenditori, avvocati, politici, tra cui Gianni Alemanno, e Nicola Zingaretti, il presidente della regione, il cui coinvolgimento nell'indagine è stato reso noto solo ieri, cioè con il proscioglimento, un caso di rispetto della privacy e delle garanzie più unico che raro nel paese dei processi mediatici, delle intercettazioni libere, del massacro preventivo. Ce li abbiamo tutti in mano, per i soldi se sono scannati, dicevano dunque Odeven e Buzzi, felici di trattare la politica come materia infima, come i monatti che facevano affari con gli appestati, come gli spacciatori coi drogati, fornendo a loro insaputa materiale per le pagine dei quotidiani. E più esageravano al telefono, più erano imprecisi, più si rafforzava in loro l'idea che siamo tutti carogne, perché nell'esagerazione, nella millanteria, nella sparata iperbolica c'è l'autoassoluzione, cioè la sostanza stessa delle allusioni, delle mezze parole, delle chiamate in correità cui Buzzi si è abbandonato a partire da giugno del 2015. E insomma tutto questo, non proprio tutto, ma crolla la teoria del monto di mezzo, con Roma che sembrava diventata la nuova Corleone d'Italia, continua a perdere pezzi. Dopo Cantone, ieri 117 richieste di archiviazione per Il Foglio, è la storia di un flop annunciato. Vabbè, questo per quel che riguarda le questioni giudiziarie. Per quel che riguarda le questioni invece di politica, questa non è politica, ma al terzo round è stato abbattuto un eurodeputato dello UKIP. Avete visto questa foto che circola del corpo privo di coscienza di Stephen Wolfe, eurodeputato dello UKIP, nei corridoi di Strasburgo, affrontato da un suo collega di partito? Una riunione finita male, o meglio finita con andiamo fuori a regolare i conti se sei un uomo. Si sono tolti la giacca e è finita scazzottata. La scazzottata poi sembrava finita lì, ma un paio d'ore dopo l'eurodeputato Stephen Wolfe è svenuto in Europarlamento per conseguenza di quel pugno e quindi è finito in ospedale. All'inizio si pensava anche in gravi condizioni, poi si è un po' ripreso. Ma insomma, finisce così. I giornali però raccontano che anche a Montecitorio c'è stata una sorta di non rissa a questo livello, non sono volate le mani, ma hanno dovuto dividere due deputati del Movimento 5 Stelle per un ritardo. Soria e Carriello pare che siano venuti quasi alle mani, raccontano i giornali. Va bene, per la cronaca invece, questo, guardate, io cosa devo dire di questa storia dell'australiana che è stata violentata a Roma. È stato preso il rumeno sospettato Eduardo Prea con i pantaloni ancora imbrattati di sangue, l'hanno arrestato con i gioielli e i dollari australiani nelle tasche, quindi insomma è altamente probabile che sia stato lui, mettiamola così. Un anno fa aveva cercato di uccidere una persona, una prostituta di cui era stato protettore, ma era libero. Oddio, no, diranno, no, non era libero per la giustizia. In realtà aveva l'obbligo di firma, in realtà era stato in carcere, aveva il divieto di avvicinamento a questa persona che aveva cercato di uccidere, capito? A questa connazionale rumena, il divieto di avvicinamento, aveva l'obbligo di firma. Risultato: molto probabilmente è stato lui a violentare questa donna. Stupro a Roma, arrestato con i gioielli della vittima, romeno, 40 anni, precedenti, i pantaloni ancora macchiati di sangue, era sul treno per Viterbo e un anno fa aveva tentato di uccidere una persona. Eccolo qua anche sul Giorno, tentò già di uccidere ma era libero. Tecnicamente, ripeto, non era libero per i sofisti della giustizia, non era libero, aveva l'obbligo di firma. Ecco qua il risultato. Coppia dell'acido invece, sempre per la cronaca nera, ricordate Alexander Butcher e Martina Levato, accusati e condannati per avere gettato l'acido su alcuni ragazzi di Milano che avevano intrattenuto relazioni con Martina Levato, in un caso invece proprio è stato anche un errore di persona. Comunque la decisione è arrivata dopo tempo, hanno fatto un figlio. Nel frattempo questo bimbo va dato subito in adozione e tolto a loro, tolto anche ai nonni. I giudici stabiliscono stop agli incontri in carcere con loro, il piccolo può subire traumi e dunque, nonostante Martina Levato, cioè la madre, sarà pronta, dicono, a presentare ricorso, i giudici dicono il bambino va tolto a loro. Siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, un'intera pagina del Corriere della Sera. È un'analisi di un filosofo che scrive: io sto con Kim. Dai, io ho detto Kim Jong-un. Ho trovato uno che sta con Kim Jong-un. Kim Il-sung, non lo so chi. Io sto con Kim. Ma Kim Kardashian, oddio, una pagina per dire io sto con Kim Kardashian. Ma chi se ne frega?